2017 DJ Lemon Guru Banjatu Mirilani. Let's go. Ban jatu meri rani, tenu mehle dawa dunga. Ban meri mehbooba, main tenu taaj pawa dunga. Ban jatu meri rani, tenu mehle dawa dunga. Ban meri mehbooba, main tenu taaj pawa dunga. Sun meri rani, rani, ban meri rani, rani. Shah Jahan main tera, tenu mumtaaj bana dunga. Ban jatu meri rani. Bane jatu meri rani, rani, rani. Bane jatu meri rani, rani, rani. Bane jatu meri rani, rani, rani. Bane jatu meri rani, keno mehle dawa tu. Sun meri